Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. Ha mosso i primi passi a teatro nella Milano della fine degli anni 70 con il Teatro degli Eguali. Tra i suoi primi spettacoli, Il sogno di una notte di mezz'estate nella versione musical rock di Gabriele Salvatores. Negli anni 80 inizia a esibirsi al Derby Club e allo Zelig. La popolarità con l'approdo in TV, ma non abbandona mai il teatro. Scrive anche un romanzo, si vede che era destino. In questi giorni, dal Festival Shakespeariano dell'estate teatrale veronese, parte il suo nuovo spettacolo. È ancora Il sogno di una notte di mezz'estate, questa volta da regista. Sul palco ci sono i comici di Zelig. Lui è Davide Ottolenghi, ma tutti, anche la mamma, assicura, lo chiamano Joelle Dix. Dunque, è nata dalla convinzione che i comici siano molto bravi, molto più bravi degli altri quando sono bravi. Cioè, non fanno solo i comici, ma sanno interpretare tutte le corde a disposizione. E allora il confronto con un grande classico, un classico denso come può essere Shakespeare, in particolare nel sogno, denso anche di commedia, di fascino, di mistero, di ambiguità, di giochi, scambi di persone, insomma un testo così ricco, potesse essere l'occasione per fare questa follia. E devo dire che il Festival Shakespeariano di Verona e lo Stabile di Verona, che producono lo spettacolo, si sono fidati di questa intuizione e hanno soprattutto apprezzato il cast che ho messo insieme, nel quale tra l'altro spiccano come battitori liberi Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che sono due musicisti molto, molto speciali anche loro, molto shakespeariani se vogliamo, perché davvero due pazzi folletti che cantano a voce nuda, che fanno orchestra con un contrabbasso, quindi insomma che sono veramente poco convenzionali. E poi ci sono questi ragazzi che tu hai colto come fiori da Zelig. Com'è andata la scelta appunto del cast? Come avete affidato i ruoli? Io me l'immagino, non so perché me l'immagino molto divertente questa operazione. Sì, in generale lo spettacolo è molto divertente, senza tradire quelle parti, quello spirito anche appunto un po' sognante del sogno, il pisticcio ci sta. La scelta è stata fatta, io un po' li conosco tutti questi comici e queste comiche, sottolineo comiche perché abbiamo la fortuna di avere quattro comiche tutte insieme, bravissime, che non è facile in Italia. E li ho scelti perché li conosco, un po' perché mi fidavo delle loro potenzialità, un po' perché sapevo del loro percorso, perché poi è vero che si dice, per semplificare, comici di Zelig conosciuti per la TV, però tutti loro hanno poi delle personalità e dei percorsi molto, molto diversi e molto più ricchi che non solo di televisione, insomma, come dire. Quindi li ho scelti anche un po' pensando alle parti, perché ci volevano delle parti un po' speciali, questi innamorati un po' ondivaghi, poi ci volevano il re e la regina della notte, che sono degli strani esseri ambigui, insomma, quindi ho anche pensato un po' a come si fa sempre in un cast, ai personaggi da interpretare. Quando il Signore Iddio fece la terra e il cielo, sopra la terra non c'era ancora alcun arbusto della campagna, né alcuna erba dei campi era ancora germogliata, perché il Signore Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non c'era l'uomo a coltivare il suolo. Negli ultimi periodi Zelig ha rivoluzionato il cinema, perché i talenti usciti da lì, da quella bottega, hanno scalato i botteghini, hanno cambiato il volto della commedia italiana, che ha particolarmente successo. Adesso tu ci stai dimostrando che possono farlo anche con il teatro. Qual è il segreto di quel palcoscenico? Diciamo che il palcoscenico di Zelig, oltre a fornire naturalmente una grande visibilità, che è però l'effetto finale, parte da un'idea che la comicità debba essere selezionata, lavorata, preparata. C'è molto lavoro dietro, per cui i comici che arrivano a Zelig hanno già fatto un bel percorso. È un punto d'arrivo e naturalmente diventa un ulteriore punto di partenza, un trampolino per fare un salto più lungo. Vero, quello che dicevi sul fatto del cinema, speriamo che sia vero anche per il teatro. In parte un po' lo è già, perché alcuni dei più bravi riempiono i teatri, però con il loro repertorio. Qui invece tentiamo di fare un'operazione un pochino più ardita, che è quella di andare a contaminarci o contaminare noi il repertorio teatrale tradizionale, importante, sempre con rispetto naturalmente, non per fare devastarlo, ma insomma, però provando a vedere se la nostra sensibilità di comici può funzionare. Il segreto è questo, il segreto è che la gente che passa per Zelig generalmente è gente preparata, abituata, brava, duttile, insomma, quindi è quello un po' il fatto. E poi c'è il seguito del pubblico, naturalmente noi lo vediamo qua, c'è una grandissima attesa a Verona per questa, per questo sogno, perché il cast naturalmente incuriosisce tutti. Ma la tua storia con Gino e Michele è molto lunga, insomma, ha già qualche annetto, ma è vero che il tuo nome d'arte è nato anche grazie a loro? Beh, diciamo sì, indirettamente, nel senso che quando loro hanno aperto Zelig, mi hanno chiesto, mi conoscevano, perché ci conoscevamo da prima dalla radio, e mi hanno chiesto se volevo andare lì a fare i miei esperimenti comici, dato che io già avevo fatto delle cose. Allora, non so perché, decisi di accettare cambiandomi il nome, perché come se mi sembrava che potesse essere una sfida divertente, ho fatto per gioco, non c'erano tanti motivi. Sai, quando uno dice, vabbè, proviamo a fare così, uno scherzo. E quindi, effettivamente, poi quando sono arrivato lì, loro mi hanno detto, ma com'è che adesso ti fai chiamare? Perché... Però gli è piaciuto, hanno detto, però è un bel nome, vedrai che funziona. E infatti ci hanno visto lungo, insomma. Basta che io varchi la soglia del mio condominio e mi sento subito diverso. Ero una persona normale. Sono diventato un condomino. Hai detto esperimenti, tu ti sei sperimentato anche come autore di romanzi, insomma, si vede che era destino che diventasse anche autore di romanzi. Perché? Cosa è successo quando hai deciso di aprire la pagina bianca e di scriverci sopra e iniziare a scrivere un romanzo? Io diciamo da sempre ho una passione per la scrittura, ero bravo al liceo a scrivere i temi, insomma, diciamo che da sempre la penna è una cosa che mi appassiona. Sono anche un grande lettore, perché credo che si possa crescere come scrittori se si legge tanto, se si riesce a capire come scrivono quelli bravi, come evolve la lingua, eccetera. Ora però questo non basta, perché poi avere anche la fantasia, il passo giusto, ci vuole qualcosa in più, e quindi forse mi è servito anche scrivere per il teatro, scrivere in generale, essere capace di scrivere storie. Ho fatto anche dei libri con brevi storie, e poi mi sono sentito recentemente di osare il romanzo, al quale mi sono accostato con grande, come dire, con grande rispetto, con grande energia. E adesso devo dire che mi ha preso bene questa cosa, per cui sto già preparando un altro, insomma, ho già messo giù le idee per un altro. E così si tratta di una, come posso dire, di un'altra delle possibilità che ho sondato in questi anni e che mi ha dato soddisfazione. Prenditi un bel navigatore, ma neanche per sogno. Anche quando eccezionalmente accetto a bordo una persona viva, prima di partire gli chiarisco la mia legge. Io mi faccio i percorsi miei e tu ti fai i cazzi tuoi. Ho letto una frase virgolettata, non so quanto sia davvero tua, mi piace molto, voglio sapere se è vero che l'hai detta. Comici e musicisti sono spiriti liberi, eppure meticolosi. Sono improvvisatori e scienziati, sanno andare in profondità senza perdere leggerezza. Sì, sì, è frutto della mia penna. È il modo in cui tentavo di sintetizzare il motivo per il quale credo che i comici siano adatti a fare Shakespeare. Senza che si debba urlare alla lesa maestà, perché poi è chiaro che quando si va su un classico, oddio, come si fa? Ma il tradire un testo come quello di Shakespeare, come dire, immettendoci dell'energia nuova e pulita,